Focus Economia. Buona serata da Valentina Furlanetto. Nella puntata di oggi parliamo di lavoro, nella prima parte almeno. Nel bollettino della Banca Centrale Europea diffuso oggi, la BCE prevede una ripresa nella seconda parte dell'anno, ma ammonisce anche i governi dei paesi di Eurolandia a dare importanza a politiche che mirino a favorire, insomma, l'occupazione per prevenire una disoccupazione strutturale molto più elevata nei prossimi anni. Lo sapete, il dibattito sull'occupazione in questo periodo è molto acceso, in attesa appunto della ripresa. Sembra proprio che i lavoratori in questo momento siano più in difficoltà. Poi parleremo del decreto legge che riduce gli acconti sui versamenti IRES, IRAP e IRPEF, approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi. L'intervento vale 3,5 miliardi di euro. Come ogni giorno ci sarà spazio anche per i mercati. Infine ci occuperemo della Banca del Mezzogiorno. Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha confermato oggi l'inserimento del pacchetto Banca del Sud nella finanziaria nel corso di una conferenza stampa con il mondo del credito cooperativo che sostiene il progetto. Si tratta di un utile strumento per portare credito lì dove credito non c'è, quindi nel Mezzogiorno, o si rischia di creare un carrozzone pubblico? Il dibattito è aperto, ne parleremo, ma ora vediamo in breve cos'altro è accaduto nel mondo per quanto riguarda l'economia e la finanza. Quindi le materie prime, come sempre, iniziamo dal petrolio. New York apre in calo, 78,44 dollari, in calo dell'1,1%. E l'oro ancora un record, ne avevamo parlato ieri del rialzi del prezzo dell'oro, è volato sopra i 1120 dollari l'oncia. Secondo gli analisti l'oro fa rotta verso 1300 dollari, mai più sotto 1000 dollari, dicono gli analisti. Sono queste le previsioni di alcuni investitori attivi nel mercato dei materiali preziosi. Secondo un dealer di Hong Kong, l'oro sembra essere sulla strada per arrivare appunto a 1300 dollari prima della fine dell'anno, dopo che il metallo prezioso ha messo a segno una crescita del 27% dall'inizio del 2009, una serie di 9 rialzi consecutivi nelle ultime sedute, un record dal 1982. Le notizie internazionali, buone notizie per quanto riguarda la disoccupazione americana. Le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono calate di 12.000 unità la settimana scorsa a quota 502.000 unità. È il livello più basso da 10 mesi a questa parte, il dato è decisamente migliore delle stime degli analisti. Il presidente americano Obama ha detto: abbiamo adottato importanti iniziative contro la recessione e ora l'economia è tornata a crescere ancora per la prima volta in un anno. Lo ha detto prima di partire per il suo viaggio in Asia, precisando che i dati di oggi sui sussidi alla disoccupazione sono un segno di speranza. Il presidente poi vuole convocare, lo ha annunciato, un vertice sull'occupazione in dicembre. E dagli Stati Uniti arrivano alcune trimestrali, tra cui quella di Walmart. Il colosso statunitense della grande distribuzione ha chiuso il terzo trimestre con utili in crescita del 3,2% grazie soprattutto al taglio dei costi. L'utile netto è salito a 3,24 miliardi di dollari da 3,14 miliardi dello stesso periodo 2008. Il risultato supera la stima media degli analisti. E veniamo all'Europa. Gli esperti del Survey of Professional Forecast della BCE, quindi della Banca Centrale Europea, hanno rivisto decisamente al rialzo le stime sull'andamento del PIL di Eurolandia nel 2009, 2010, 2011. I previsori hanno aumentato di 0,6 punti percentuali la stima del PIL per il 2009, portandola da meno 4,5% dell'ultimo rilevamento a meno 3,9%. Per quanto riguarda il bollettino della BCE, la BCE vede nella seconda parte dell'anno in corso un tasso di crescita trimestrale del PIL in termini reali riportarsi su livelli positivi, ma dice l'incertezza resta elevata data la natura temporanea di alcuni dei fattori favorevoli. Nell'uscire dalla crisi poi i paesi di Eurolandia, ammonisce sempre la BCE, devono dare importanza cruciale a politiche che mirino a favorire l'occupazione al fine di prevenire una disoccupazione strutturale. strutturale più elevata nei prossimi anni. Lo dicevamo in apertura, questo sarà il tema dell'apertura di Focus Economia di oggi. Dice ancora la BCE, i governi devono rendere note e attuare tempestivamente strategie di uscita dalle misure di stimolo e strategie di riequilibrio dei conti pubblici. E poi uno studio che è stato diffuso proprio pochi minuti fa, RS Mediobanca, sul trading bancario in Europa. Le grandi banche europee, scrive questo studio, si legge da questo studio, e tra loro anche le italiane, stanno proseguendo con forza l'attività di trading che nel primo semestre del 2009 segnavano un utile di 28 miliardi di euro contro una perdita di 61 miliardi accusata sui crediti. Per quanto riguarda poi gli aiuti dei governi alle banche in Europa, il paese che ha più aiutato le sue banche è la Gran Bretagna con 394 miliardi, seguita dalla Germania con 318, staccati gli altri paesi con l'Italia decima a 4,1 miliardi. E sempre da questo studio, e ne parleremo dopo le 18 di Mediobanca, si evince che crescono crediti dubbi, male anche l'Italia. Le principali 20 banche europee stanno registrando un forte aumento dei crediti dubbi e le italiane sono tra quelle che accusano di più il fenomeno. Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, ha parlato oggi di riforme della finanza. Stiamo entrando in un periodo critico della riforma delle regole, dobbiamo prendere delle decisioni difficili, ha detto il governatore, che è anche presidente dell'organo cui il G20 ha affidato il compito di scrivere le nuove regole della finanza. Draghi ha detto che è necessario rafforzare il sistema della finanza globale e poi ha detto che con il miglioramento della situazione il potere degli interessi di parte, contrari a ogni riforma sostanziale, diventa più forte e per questo occorre agire nel breve termine in tutti i campi della finanza globale. La Banca del Sud, ne parleremo più tardi, quasi in chiusura di trasmissione. Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha detto oggi: mi hanno chiesto se sul progetto della Banca del Mezzogiorno ci sono problemi. La risposta ad una domanda così pessimista è molto ottimista: non ci sono problemi. Oggi il Senato approva l'emendamento che recepisce nella finanziaria il disegno di legge sulla Banca del Mezzogiorno, mentre questa mattina abbiamo dato il colpo di manovella per l'avvio della banca. E poi un altro tema che fa parte del piatto di oggi di Focus Economia, ossia il calo degli acconti IRAP, IRES, IRPEF per 3,5 miliardi. Ammonta a questa cifra la riduzione degli acconti di novembre prevista dal decreto oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di lasciare queste risorse nelle tasche degli italiani. La riduzione, secondo quanto riportano alcune fonti, riguarderebbe oltre a IRES e IRAP anche l'IRPEF. Lo sconto sarà recuperato con i versamenti tra giugno e luglio prossimi. Il commercio. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, oggi a Roma, dopo aver parlato ieri della situazione dei negozi in Italia, aver chiesto una detassazione sulle tredicesime, ha detto bene il governo sugli studi di settore, lo sapete, c'è stata questa moratoria, bisogna stare attenti, però ha detto Sangalli, non si tratta di una moratoria ma di una revisione. Abbiamo gradito molto da parte del governo la disponibilità a rivedere gli studi di settore e fare in modo che i parametri tengano conto dell'impatto duro, in alcuni casi drammatico, della crisi sulle piccole e medie imprese. Lo ha detto Sangalli intervistato da Alessandra Schepisi a margine dell'incontro con il segretario del Partito Democratico Bersani. Beh, sugli studi di settore noi abbiamo apprezzato molto l'intenzione del governo di rivederli, non si tratta di una moratoria. Si tratta di una revisione, cioè bisogna fare in modo che gli studi di settore tengano conto nella formulazione dei loro parametri dell'impatto certamente duro e in alcuni casi anche drammatico che la crisi ha avuto nei confronti delle piccole e medie imprese. E allora noi abbiamo chiesto con forza la revisione di questi parametri, perché gli studi di settore devono rispondere a tre principi fondamentali, che sono i tre principi ispiratori degli studi di settore stesso, che sono il principio dell'equità, della selettività e della territorialità. E quindi fare in modo che i parametri, visto che l'andamento della crisi, ripeto, ha picchiato in maniera dura nei confronti di piccole imprese, rispettino questi criteri. E queste erano le notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria, ma andiamo al tema di apertura della puntata di oggi, che, come vi dicevamo, è il lavoro, l'occupazione. Nell'uscire dalla crisi, i paesi di Eurolandia devono dare importanza cruciale a politiche che mirino a favorire l'occupazione al fine di prevenire una disoccupazione strutturale più elevata nei prossimi anni. Questo dice la Banca Centrale Europea oggi. Abbiamo con noi il ministro per il lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, Ministro, ha sentito oggi il monito contenuto nel bollettino della BCE, che ancora una volta sprona i paesi in Europa a cercare di incentivare le politiche per il lavoro, che in questo momento in cui si spera in una ripresa, si vedono anche dei segnali di ripresa, sembra essere forse l'ombra più scura che abbiamo davanti a noi. Il monito della Banca Centrale Europea dice ai paesi che il 2010 può essere e sarà con ogni probabilità anno di ripresa, tuttavia di una ripresa probabilmente non lineare e per molti aspetti selettiva, che potrebbe esprimere criticità sociali, problemi di occupazione, cioè di durata del periodo di inattività al quale molte persone potrebbero essere costrette, o con l'evidenziarsi di molte ristrutturazioni che nel corso dell'anno precedente sono state fortunatamente rinviate, molte persone potrebbero vedere la loro condizione di inattività, per esempio in uno stato di cassa integrati, modificarsi, nel senso che ieri potevano sperare il rientro in quell'azienda e ora si trovano di fronte alla prospettiva invece di dover cercare un altro lavoro perché dichiarati lavoratori in esubero. E allora per questo noi dobbiamo rafforzare la capacità di proteggere il loro reddito, prorogare strumenti di protezione del reddito quali abbiamo impiegato nel corso di quest'anno, ma insieme anche cercare di accompagnare questi lavoratori a forme di attività, meglio se lavorativa, ma almeno formativa e formativa che serva. Poi c'è tutta una fetta di lavoratori, mi riferisco ai lavoratori precari che non sono sotto l'ombrello degli ammortizzatori sociali attuali. Lei ne ha già parlato di questo, ha detto faremo questa riforma degli ammortizzatori sociali quando la crisi sarà passata. Quali saranno i segnali dunque? Ma neanche domani, quando questa crisi dovesse essere superata, gli ammortizzatori sociali, che hanno una caratteristica assicurativa, si rivolgono ovviamente ai lavoratori dipendenti e a lavoratori che hanno già lavorato, perché è necessario mantenere un criterio di responsabilità nell'accesso a questi strumenti. Oggi per poter avere una cassa integrazione devi avere lavorato almeno 3 mesi, per avere l'indennità di disoccupazione, quella ridotta, devi avere lavorato almeno 78 giornate. Questo tipo di requisiti, anche e direi ancor più in una situazione del dopo crisi, non possono venire meno, possono per carità opinabilmente essere in certa misura corretti, ma sostanzialmente sono requisiti che in ogni paese si adottano per evitare una forma di salario garantito che evidentemente non solo costerebbe molto, ma soprattutto demotiverebbe molti dal cercare un lavoro. Oggi sul Sole 24 Ore viene pubblicato un articolo che riporta un rapporto della CISL sull'occupazione, nel quale si legge che la cessazione dei rapporti di lavoro per il 21% è stata quest'anno, ha riguardato i contratti a tempo indeterminato, mentre per il restante 79% erano rapporti a termine. Quindi i precari, lei giustamente diceva, non possono accedere a queste forme di ammortizzatori sociali. Ma voi cosa state pensando per questa fetta sociale di persone non protette? No, non è esatto. Io ho parlato del lavoro dipendente rispetto a forme di lavoro indipendente. Se una persona è precaria perché ha un rapporto di partita IVA, né oggi né domani sarà considerata nelle forme di ammortizzatore sociale, mentre se è un lavoratore a termine e se accumula il periodo assicurativo minimo può accedere all'indennità di disoccupazione o anche accedere alla cassa integrazione se durante il suo periodo contrattuale è costretto all'inattività. Cosa particolare può essere quella dei collaboratori a progetto che hanno un solo committente, per i quali noi abbiamo introdotto un primo tentativo sperimentale di indennità una tantum, non essendo dei dipendenti ed essendo remunerati a risultato, l'unica forma possibile. Ora valuteremo, poiché la misura decisa l'altro anno è stata poco utilizzata, valuteremo se renderla più fruibile, ma sono sempre forme diverse dal classico ammortizzatore consistente in un'indennità mensile per un certo arco temporale. Senta, quando qualche tempo fa il ministro Tremonti si è espresso sfavorevolmente riguardo, diciamo, alla flessibilità, ha detto il posto fisso insomma è ciò che garantisce una sicurezza, la predisposizione a fare dei progetti, lei che cosa ne pensa? Che ha detto una cosa ovvia, che ciascuno desidera la stabilità del lavoro e ciascuno si augura di poter svolgere un lavoro di qualità che possa essere abbandonato solo su propria volontà. Il problema è che ciò non si ottiene per legge e che si devono costruire le condizioni per questa stabilità, e la prima condizione è nelle competenze delle persone. Noi spendiamo molto per formazione, o meglio sono le regioni a spendere molto per formazione usando anche fondi europei, ma credo che si debba riflettere molto sulla efficacia di quella spesa che spesso non garantisce occupabilità alle persone. Qualche volta io ho detto con una facile battuta che per lo più ha fatto la festa dei formatori. Sulla detassazione delle tredicesime lei si è già espresso ieri, però Confcommercio non molla nonostante il suo no di ieri. Il presidente di Confcommercio Sangalli oggi ha chiesto, insomma, che questa misura venga presa per sostenere un po' i redditi di coloro che vanno a spendere nei prossimi mesi e potrebbero così rilanciare un po' il commercio. Io comprendo bene che dalla Confcommercio venga questa proposta, è ben comprensibile, tuttavia come è noto è molto onerosa, quindi valuteremo. Quindi non è un no? Beh, non si tratta di dire no in via di principio, perché noi stessi ipotizzammo una misura di questo tipo, di quantomeno di detassazione, di tassazione più favorevole delle tredicesime, come abbiamo fatto con le componenti variabili ancorate a premi e risultati di impresa del salario, quella tassazione del 10% secca, però date risorse limitate, date le condizioni di un paese dal grande debito che deve prima di tutto pensare alla stabilità della propria finanza pubblica, si tratta di vedere dove concentrare le limitate risorse, e noi fino ad ora lo abbiamo fatto, come ho detto, soprattutto sulle parti variabili del salario legate a risultati d'impresa. Sempre riguardo a affermazioni del ministro Tremonti, ma più recenti, di 2 giorni fa, ha detto il ministro: finché ci sarò io non ci saranno tagli alle pensioni. Conferma? Ma l'abbiamo appena fatto un intervento 2 mesi fa, e per questo anche Tremonti sostiene questa posizione, che è di tutto il governo. Ovviamente, avendo 2 mesi fa soltanto preso una decisione importante, quella di alzare automaticamente l'età di pensione man mano che si alza l'aspettativa di vita, con un calcolo che parte già dal 2010, dal prossimo anno, e che darà vita a un incremento per la prima volta nel 2015 e poi succede ripetutamente negli anni successivi, noi pensiamo che il sistema sia oggi in equilibrio. Ovviamente dovrà essere monitorato o controllato, e quindi sarebbe assurdo riaprire questo capitolo a 2 mesi da un intervento riformatore. Quello di cui lei parlava è la revisione dei meccanismi di trasformazione, no? Quello da gennaio 2010. No, ho parlato della riforma varata con il provvedimento di luglio, il provvedimento nel quale abbiamo introdotto l'adeguamento automatico dell'età di pensione all'aspettativa di vita a partire dal 2015 con calcolo retroattivo sul quinquennio precedente. La ringrazio, Ministro, di essere stato con noi. E di politica di sostegno del reddito ha parlato anche il segretario del PD Luigi Bersani al termine di un incontro con il presidente di Confcommercio Sangalli, lo ha intervistato la nostra Alessandra Schepisi. Cioè, noi abbiamo bisogno in questo paese di riaprire un grande tavolo di politica dei redditi. Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni un drammatico impoverimento del potere d'acquisto di redditi medi e bassi. Non può esistere attività economica, commerciale, attività di artigianato di servizio fiorente se non si fa crescere il potere d'acquisto della larga massa di cittadini. Noi abbiamo una forbice nei redditi che è fra le più ampie del mondo occidentale sviluppato e abbiamo una tendenza all'impoverimento dei redditi medio-bassi. Senza un'inversione di questa tendenza non può esserci prospettiva per i servizi e per il commercio. Questo era Pierluigi Bersani, segretario del PD, ma ora andiamo a parlare di borsa. Borse in Europa positive oggi, anche Milano segue questo andamento. In questo momento a New York il Dow Jones invece è in calo dello 0,52%, il Nasdaq dello 0,43%. Abbiamo in collegamento Corrado Poggi, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo, in Europa i listini hanno chiuso insomma con il segno più? No, in realtà soprattutto Milano nell'ultima ora ha subito un'inversione di tendenza, lo stesso vale anche per Parigi, Francoforte e Londra. Ha pesato su Wall Street la trimestrale riportata da Walmart, il colosso dei supermercati discount, perché è vero che sono andati bene gli utili, ha guadagnato oltre 3 miliardi nel trimestre, ma le vendite sono andate peggio delle attese, sono calate dell'1% e anche le proiezioni per il quarto trimestre sono incerte, cioè vedono la possibilità o di una diminuzione dell'1% o di una crescita dell'1%, invece i mercati si aspettavano una stima più sicuramente positiva. Quindi questo ha pesato su Wall Street e di riflesso sulle borse europee. Quindi insomma l'andamento di Wall Street appesantito da Walmart ha fatto girare un po' i mercati. Io prima della diretta avevo visto un mercato positivo, invece è girato in negativo anche Milano. Tra i peggiori titoli quindi del listino milanese vedo l'automatica. Sì, l'automatica è stata anche lei in altalena l'altro giorno, è stata anche in positivo. Ha chiuso poi in ribasso, semplicemente non c'è una cosa scatenante, ha guadagnato abbastanza bene nei giorni scorsi, quindi hanno prevalso poi i realizzi di profitto. Anche Geox perde e ieri il titolo era negativo. Sì, esatto, questo Geox probabilmente è così come altri gruppi che hanno un'esposizione sui mercati stranieri, statunitensi, stanno risentendo appunto di questa inversione di tendenza che c'è stata. Per quanto riguarda Mondadori, terzo titolo negativo nel paniere principale, meno 1,8%, Mondadori ha dato oggi i dati dei 9 mesi, ha chiuso i primi 9 mesi del 2009 con un utile netto a 27,1 milioni di euro, in calo del 53,9%, immagino che sia per questo che il titolo viene così venduto. Sì, infatti, perché prima della pubblicazione dei conti era in lieve ribasso, ma ha chiaramente accentuato le perdite dopo la presentazione dei conti. Sono stati chiaramente penalizzati dall'andamento della congiuntura. Dicevi, è calato del 53% l'utile netto consolidato, è calato del 18% il fatturato consolidato, insomma conti difficili, sono stati anche presentati dei piani di taglio che prevedono 600 licenziamenti entro il 2011 per le testate del gruppo. Quindi... Vedo Campari e Buzzi in negativo, ieri avevano festeggiato dopo i risultati, immagino che sia una questione tecnica quindi. Buzzi, sì, è anche vero che oggi c'erano state alcune azioni da parte delle banche, Exan ha ridotto il giudizio da neutral ad underperform, mentre Citigroup ha alzato il target price. Ieri comunque, come dicevi, c'erano stati dei buoni rialzi perché la controllata svizzera Holcim era andata meglio delle attese, quindi il titolo era salito. Quindi sicuramente ha risentito oggi di prese di beneficio. Ecco, passiamo invece agli acquisti. Prysmian ha recuperato dopo dei cali nei giorni scorsi. Sì, Prysmian aveva pagato pesantemente la decisione di Goldman Sachs di vendere un pacchetto del 14%. Goldman Sachs detiene il 31,7%, è scesa del 14%, quindi ha immesso questo grosso pacchetto sul mercato e quindi chiaramente il titolo ha risentito. Oggi c'è stato un rimbalzo, si spera anche si conta sul fatto che se Goldman Sachs dovesse vendere altre azioni, queste possano essere rilevate dal gruppo coreano Taihan, che è già azionista al 9,9%. Poi dal Brasile l'amministratore delegato Valerio Battista nei giorni scorsi ha parlato di un programma di possibile di espansione e ha anche annunciato un piano di investimenti per 180 milioni entro il 2010, quindi comunque annunci ottimisti. Non di un'azienda in crisi. Prysmian ha guadagnato il 2,61% più 2,37% invece Pirelli, che è salita su ipotesi di un'integrazione, mi pare di capire, tra Pirelli Re e Finmit. Esatto, sì, proprio questo possibile progetto è quello che ha catalizzato l'interesse degli analisti e degli investitori. L'ipotesi appunto è quella di scorporare la divisione immobiliare che è Pirelli Re e di accorparla con Fimit che sta per Fondi Immobiliari Italiani e dar vita a un gruppo che potrebbe avere una forte presenza nella gestione degli asset e dei servizi immobiliari. E questa operazione si potrebbe fare entro la fine del 2010, come ha detto Trocchetti Provera. Un po' in tutta Europa è andato bene il settore telecomunicazioni, anche Telecom Italia a Milano. Sì, infatti ha trascinato il comparto l'inglese British Telecom perché ha riportato utili in crescita del 13,2% nell'ultimo trimestre e ha rivisto al rialzo le stime per il 2009 e il 2010 con un dividendo anche in crescita del 5%. È andata bene anche Telefonica in Spagna che ha comunicato dati in linea e ha confermato le attese per il 2009 confermando la priorità anche per la distribuzione dei dividendi. Per quanto riguarda Telecom Italia, quindi c'è stato chiaramente questo effetto scia e inoltre Credit Suisse ha alzato il target price da 1,1 a 1,2 euro, che è comunque un aumento del 10%. Per quanto riguarda Fiat, vedo che il titolo ha ceduto lo 0,28%, quindi in pratica fermo. Sì, in pratica fermo. Nel comparto ci sono state un paio di notizie oggi, una è Peugeot, che ha alzato le stime per il 2009 e quindi è andata molto bene a Parigi e leggevo pochi minuti fa in agenzia che Porsche in Germania invece ha riportato perdite ante imposte per 4,4 miliardi di euro nell'esercizio 2008-2009, cioè l'ultimo esercizio. Su A2A meno 0,85%, hanno pesato credo i ricavi dei 9 mesi che sono un po' in calo? Sì, esatto. Sono stati molto in calo perché sono stati pari a 2 milioni di euro contro i 238 di un anno fa. Meno 1,4%. Mm-hmm. I ricavi sì, parlavo degli utili e invece i ricavi meno 1,4%. E poi c'è stata anche questa multa europea. Esatto, che sì, che ha esattamente pesato sull'utile cancellandolo in larga parte. Per quanto riguarda invece Tecnimont, il titolo in forte calo oggi? Sì, ha perso credo il 17% nelle ultime battute. Il gruppo appunto ha riportato i risultati per i 9 mesi, c'è stato un calo dell'EBITDA del 26%, dell'utile del 37%, e inoltre sono stati rivisti al ribasso i target per quanto riguarda ricavi e anche l'utile netto. È positivo invece l'andamento del portafoglio ordini, che dovrebbe centrare l'obiettivo indicato per il 2009 di una crescita fino a 2,5 miliardi. Io ti ringrazio Corrado Poggi, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore, per questo aggiornamento di borsa. Buonasera. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per la riduzione degli acconti IRES, IRAP e IRPEF per un totale complessivo di circa 3,5 miliardi di euro. Il provvedimento introduce l'intervento sull'IRPEF per le piccole e medie imprese individuali e le società di persone che lo scorso anno avevano lamentato l'esclusione. Abbiamo in collegamento il collega del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delbo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, a chi si applica questo taglio, questa riduzione degli acconti? Apparentemente, sulla base delle indicazioni che sono arrivate finora, si applicherebbe a una platea più ampia di soggetti rispetto a quanto si era pensato, cioè alle società di capitali, alle società di persone, alle persone fisiche, il che vuol dire diciamo agli imprenditori individuali, ai professionisti e anche alle famiglie. Il dubbio è appunto su quanto possa influire sulle famiglie. Il dubbio è quanto possa influire sulle famiglie, soprattutto perché abbiamo ancora la necessità di avere un testo definitivo del decreto legge consolidato, un testo che consenta di capire chi saranno gli ammessi e chi saranno gli esclusi. Quindi probabilmente in serata si chiarirà questo elemento. Quindi Jean-Marie, non ci sono ancora i dettagli di questa decisione del Consiglio dei Ministri? I dettagli mancano, c'è la presumibile portata dell'operazione, si parla di 3,5-3,6 miliardi e si parla di un meccanismo che sarebbe una dilazione di pagamento di fatto, perché il pagamento verrebbe posticipato al saldo dell'anno prossimo. In questo modo però si avrebbe la possibilità di dare ossigeno eventualmente a imprese che si trovano in difficoltà. La copertura poi deriverebbe dallo scudo fiscale, il che proietta, come dire, non tanto un'incognita quanto l'ombra dell'effettiva resa dello scudo fiscale sull'effettività dell'operazione. E tu hai citato le imprese e la presidente degli industriali Emma Marcegaglia ha detto bene su questa riduzione, la riduzione dell'acconto di novembre, ha detto Marcegaglia, in termini di liquidità può essere un aiuto alle imprese, ma con una platea così ampia la dimensione è minima, ha detto. In materia fiscale serve soprattutto una riforma strutturale che abbassi la pressione. Jean-Marie, è una forma di differimento che verrà recuperato poi nel 2010? Una forma di differimento che è stata già sperimentata l'anno scorso, quindi, e che quest'anno viene probabilmente predisposta con maggiore cautela, nel senso che l'anno scorso, se non ricordo male, il decreto era arrivato più in là nel tempo e aveva posto alcuni problemi per chi aveva già pagato. Si parla, sempre se saranno confermati, di 3,5 miliardi di euro, una cifra quindi più alta dei 2 miliardi ipotizzati finora. Sì, una cifra più alta che sicuramente costituisce un impegno in questa fase, vuole essere probabilmente anche un segnale politico che viene dato da parte del governo nei confronti delle categorie e diciamo le reazioni favorevoli lasciano intendere che il segnale politico sicuramente... In questo momento viene raccolto, poi bisognerà vedere l'effettività concreta, quale sarà il beneficio concreto che da questa disposizione verrà per i singoli contribuenti. E questi costi verranno coperti, se capisco bene, dalle entrate, dai proventi dello scudo fiscale che termina il prossimo 15 dicembre. L'operazione dovrebbe funzionare così e quindi questo accresce ulteriormente l'attesa per i bilanci finali degli incassi legati allo scudo fiscale. E che ancora non si sa di quanto saranno. Come dire, farà aumentare anche l'attenzione della... governo a favorire probabilmente il ricorso a questo strumento. E poi invece le misure di rilancio dell'economia alle quali erano destinati i proventi dello scudo fiscale dovrebbero essere coperti invece dall'anticipo che sarà recuperato a giugno e luglio prossimo, è così? Dovrebbe essere così. E naturalmente si parla poi di tempi piuttosto lunghi, quindi sicuramente se dal punto di vista formale è così, poi il trascorrere dei mesi e l'andamento dell'economia probabilmente daranno delle risposte anche più indicative, insomma. Grazie, leggeremo i dettagli quindi domani sul Sole 24 Ore, grazie a Jean-Marie Delbos per questo approfondimento. Noi tra poco, dopo il GR, andremo a parlare di banche. Parleremo di banche, parleremo di riforme finanziarie tra poco e anche di governance, ma di governance ha parlato anche il direttore generale della WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, Pascal Lamy, che pochi giorni fa, nel corso di una lezione per l'apertura dell'anno accademico dell'Università Bocconi di Milano, ha spiegato come c'è un posto sulla Terra dove sono state sperimentate forme di governo globale dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Europa, ha detto Lamy, che ha detto anche che sta cambiando profondamente l'Europa, il modello di governance mondiale. Allora sentiamo questa intervista che è stata realizzata per noi dal nostro Sergio Nava. I believe European governance can fare well on leadership. Penso che la governance europea possa far bene sul fronte della leadership. Utilizzerò due esempi per spiegarlo. Il primo riguarda la campagna per la creazione del mercato interno nel 1992. Ci si arrivò grazie a una forte volontà politica, emersa in seguito a un periodo economico e politico difficile. Il chiaro obiettivo era quello di azzerare le barriere interne ai movimenti dei beni, del capitale e delle persone, accompagnandolo con una importante riforma istituzionale, la quale portò all'accettazione del voto a maggioranza anziché all'unanimità, per giungere all'adozione delle decisioni che portarono alla creazione del mercato interno. Il secondo esempio è quello della creazione dell'euro. Ci sono voluti oltre 20 anni per raccogliere la volontà politica e definire l'obiettivo, cui ha fatto seguito la creazione della BCE, la più federale delle istituzioni europee. Ma abbiamo visto pure dimostrazioni di leadership coronate da minor successo. Ad esempio l'agenda di Lisbona, dove abbiamo registrato l'assenza cospicua della volontà politica, accompagnata da obiettivi condivisi solo a metà. La crisi economica che stiamo vivendo ha accelerato il movimento verso una nuova architettura di governance globale, che ho definito un triangolo di coerenza. Su un lato del triangolo si trova il G20, che rimpiazzerà l'ex G8, fornendo leadership e direzione politica. Sull'altro lato si trovano le organizzazioni internazionali, che forniscono competenze e input specifici. Infine il G192, cioè le Nazioni Unite, che forniscono un forum per la responsabilità. Nel lungo termine dovremmo ottenere che sia il G20 sia le agenzie internazionali riportino direttamente al Parlamento delle Nazioni Unite. Col tempo, il G20 potrebbe persino costituire una risposta alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La globalizzazione pone oggi una sfida seria alle nostre democrazie. I nostri sistemi di governance devono rispondere alla sfida. Se i nostri cittadini percepiscono che i problemi globali sono insolubili, se sentono che sono fuori dalla loro portata, questo potrebbe evirare le nostre democrazie. Lo stesso accadrebbe qualora i nostri cittadini percepissero che i problemi globali possono sì essere affrontati, ma senza alcun apporto da parte loro. Oggi, più che mai, i nostri sistemi di governance devono fornire ai cittadini strade per plasmare il mondo di domani. Tra i tanti tentativi di integrazione regionale, l'Unione Europea resta il laboratorio della governance internazionale, il luogo dove la nuova frontiera tecnologica della governance internazionale viene testata. Seconda parte dedicata tutta alle banche, alla finanza, con alcune notizie e approfondimenti dedicati appunto alla Banca del Sud, come vi avevamo preannunciato, e a un rapporto che è uscito proprio oggi pomeriggio di Mediobanca che riguarda il sistema bancario in Europa. Poi c'è stato anche un intervento al convegno BCE-CFS di Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, che ha anche presentato presidente dell'organo cui il G20 ha affidato il compito di scrivere le nuove regole della finanza, ha detto Mario Draghi: in questo periodo critico della riforma delle regole dobbiamo prendere delle decisioni difficili. Draghi si riferisce alla riforma delle regole della finanza mondiale. È necessario rafforzare il sistema della finanza mondiale, ha detto Draghi, con il miglioramento della situazione, però il potere degli interessi di parte contrari a ogni riforma diventa più forte, ha ammonito il governatore. Poi, per quanto riguarda la crisi che ha colpito molte banche, c'è stato un forte dibattito su quale sistema bancario potesse essere più esposto, quelle banche internazionali, quelle più grandi e quelle più piccole. Mario Draghi ha detto: non c'è un modello di banca che sia mostrato più fragile di altri perché è più complesso. Tutti i tipi di banche sono falliti, banche puramente commerciali, universali, di investimento. E poi, parlando appunto di banche troppo grandi per fallire, che si assumono eccessivi rischi causando conseguenze sull'intero sistema, Draghi ha ricordato dei casi opposti fra loro, come la Northern Rock, quindi una banca medio-piccola, e la Lehman Brothers, quindi una banca di investimento molto grande. E il rapporto che citavamo, RS Mediobanca, lo studio sui principali paesi europei e sulle banche dei principali paesi europei, ha anche calcolato quanti aiuti pubblici sono stati dati alle banche in Europa, in quali paesi e quali sono state le banche che ne hanno approfittato di più. La Gran Bretagna in Europa è il primo paese che ha dato più aiuti alle sue banche, con 394 miliardi, seguita dalla Germania con 318 miliardi. L'Italia è decima con 4,1 miliardi. Per parlare di questo rapporto abbiamo in collegamento la collega del Sole 24 Ore, Antonella Olivieri. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo, in questo rapporto si parla di molte cose, tra cui anche questi aiuti. L'Italia è decima, secondo la ricerca la Gran Bretagna ha messo sul piatto, insomma, la cifra più sostanziosa, no? Anche perché, diciamo, la Gran Bretagna in Europa è stato il paese che finora ha avuto i maggiori problemi. Basta pensare al caso della Royal Bank of Scotland, praticamente era stata nazionalizzata. C'è anche da dire che la Gran Bretagna, cioè le banche inglesi, sono anche state le prime a muoversi per rimborsare le somme e gli aiuti ottenuti dallo Stato. Infatti la situazione aggiornata vede in netto ridimensionamento l'esposizione dello Stato verso il settore bancario. Per quanto riguarda invece il trading, Antonella, le grandi banche europee e anche quelle italiane proseguono con forza le attività di trading? Esattamente, diciamo che è un po' la caratteristica di questo 2009, perché le grandi banche se la sono cavata molto bene in un periodo difficile, non solo perché sono riuscite a giostrare efficacemente per i loro conti e il gioco dei tassi di interesse, ma soprattutto perché sono riuscite a guadagnare con la negoziazione di strumenti finanziari, quindi lavorando sulla borsa, sulle obbligazioni, sui titoli di Stato. E, di fatto, questi utili da trading hanno permesso alle banche di chiudere sei mesi inutili, probabilmente chiuderanno inutili anche l'intero 2009, ma soprattutto di permettere di ammortizzare il peso delle perdite su crediti, che invece sono cresciute in modo esponenziale. Se ci fosse un problema in futuro sui mercati finanziari, sulla borsa, e le banche non potessero più contare su questi utili, il problema delle sofferenze, delle perdite su crediti porterebbe con tutta probabilità i conti di nuovo in rosso. Quindi questo non è molto rassicurante, no? Le perdite per crediti coperte in parte dal trading. Diciamo che è un sollievo temporaneo che arriva dalla finanza, però se l'economia reale non si riprende, i problemi per le banche sono destinati a emergere ancora. Grazie Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Buonasera. Banca del Mezzogiorno, quindi, perché appunto c'è questa criticità del rapporto tra credito e sviluppo nel Sud Italia, se ne parla di molto, di come si può risolverlo, e dal punto di vista del ministro Tremonti e di molti esponenti dell'economia, questo potrebbe essere un modo per dare fiato alle imprese del Sud. Secondo altri, invece, si potrebbe trattare, o c'è il rischio che diventi, un carrozzone statale in parte. Ecco, di questo vogliamo parlare, anche per cercare di capire un po' meglio di che cosa si tratta, ma sentiamo innanzitutto che cosa ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti oggi ad un incontro al quale ha partecipato con Federcasse, Confcooperative e le associazioni imprenditoriali sul progetto Banca del Mezzogiorno. Mi è stato chiesto: ci sono problemi per la Banca del Mezzogiorno? La risposta a una domanda così pessimista è fortemente ottimista: non ci sono problemi. Oggi da una parte il Senato della Repubblica approva articolo aggiuntivo, emendamento alla finanziaria, il testo approvato al Consiglio dei Ministri della Banca del Mezzogiorno. Oggi qui c'è stata la riunione costitutiva per i lavori, il colpo di manovella dei lavori per la Banca del Mezzogiorno. La compatibilità con l'Europa la verificheremo una volta avuta la legge. Francamente non credo che ci siano problemi di quel tipo. Credo che debba essere presentato, ma credo che possa essere presentato in termini positivi e costruttivi anche in sede europea. Nel progetto del governo, e credo oggi nell'emendamento del Senato, c'è anche l'abbattimento della fiscalità di vantaggio per la raccolta di risparmio di capitali destinato al Sud. Ovunque e chiunque sottoscrive, acquista un libretto, un titolo, un certificato, uno strumento finanziario, puoi essere in Val d'Aosta, in Friuli, in Emilia e non solo nel Sud, se la raccolta viene poi impiegata nel Sud per creare lavoro e occupazione nel Sud, l'aliquota è un'aliquota di vantaggio, la più bassa d'Europa, il 5%. E anche le piccole e medie imprese associate a Confapi vogliono la Banca del Sud, lo ha detto oggi Paolo Galassi, presidente di Confapi, che riunisce 60.000 imprese, 1,5 milioni di addetti. Insomma, parliamo di questo progetto con Massimo Lo Cicero, docente di economia dei mercati monetari all'Università Tor Vergata 2. Buonasera. Buonasera. Allora, professore, ha sentito Tremonti nel file che abbiamo mandato in onda, si parla di una fiscalità di vantaggio. Mi pare di capire che questo sia un modo ovviamente per dare fiato a questa nuova banca, ma ci potrebbe essere una disparità di trattamento con le altre banche che operano al Sud? No, la fiscalità di vantaggio, se ho capito quello che ha detto Tremonti, si riferisce a tutti gli strumenti finanziari, non solo a quelli emessi dalla Banca del Sud. Se il Ministro, diciamo, ha detto questo, vuol dire che qualsiasi banca potrà creare dei fondi che, se sottoscritti dai risparmiatori, generano un piccolo sconto fiscale per i risparmiatori e un vantaggio per il Sud. Se invece questi strumenti finanziari devono essere emessi dalla Banca del Sud, bisognerà aspettare che venga costituita la Banca del Sud e là avremo un po' di tempo, diciamo, da impiegare per completare l'iter del disegno di legge e per dare vita a un'organizzazione capace di gestire questi strumenti finanziari. Lei è stato per anni consigliere d'amministrazione del vecchio Banco di Napoli. Di questo ritorno dello Stato nel credito con questa istituzione, cosa ne pensa? Io sono stato amministratore del Banco di Napoli dal 79 all'83, era una banca pubblica, il presidente era il dottor Rinaldo Ottola, non era, diciamo, una banca particolarmente, diciamo, inefficiente se si guardano i bilanci dell'epoca. Il problema è che negli anni 90 il Banco di Napoli ha subito, diciamo, progressivamente sia uno stress da dilatazione sia uno stress da trasformazione da banca pubblica in società per azioni. Come è andata a finire lo sappiamo, è inutile che ce lo ridiciamo. Il problema però, per comparazione, potrebbe essere fatto con la Germania. Molte banche in Germania, soprattutto a livello regionale, sono pubbliche. Non è detto che una cosa pubblica sia inefficiente per definizione. Il problema sta nelle persone con cui si gestiscono le cose pubbliche, ovviamente. Quindi lei non vede una preoccupazione per il ruolo pubblico, sia pure come promotore della nuova banca? No, io vedo una preoccupazione diciamo, una cosa che il ministro Tremonti ripete spesso, cioè per il fatto che se uno amministra un interesse pubblico lo deve fare nell'interesse del pubblico e non nel proprio interesse o nell'interesse del proprio partito o di qualcosa del genere, e di conseguenza ci sarà una preoccupazione sul costruire una agenzia, una banca, un'entità che abbia le capacità di svolgere, diciamo, la funzione che deve svolgere, quella di far credito alle imprese. Ecco, citiamo per completezza di informazione il precedente, quello della Cassa del Mezzogiorno, che era nata nel 1950, poi si è concluso dopo 42 anni di attività, insomma, con un'elargizione alle regioni meridionali di 280 mila miliardi di lire. Quella è un'esperienza alla quale guardare oppure un po' da dimenticare? Se lei guarda l'esperienza di quella che nei libri di storia si chiama la cassa di pescatore, cioè la cassa del primo presidente, quella che va dal 50 alla fine alla grande crisi, diciamo, degli anni 70, quando ci fu poi lo scioglimento del rapporto tra dollar standard e Stati Uniti d'America, quando ci fu il 68-69 in Europa, cioè negli anni 50 e negli anni 60 la cassa ha costruito un patrimonio infrastrutturale nel Mezzogiorno che è ancora in utilizzo da parte dei meridionali. Cioè la cassa fu una cosa copiata, diciamo, dai modelli americani, dal New Deal di Roosevelt, la realizzarono persone come Saraceno, diciamo, e appunto pescatore. La cassa in quei vent'anni è stato un buon esperimento, è diventata una cattiva cosa dagli anni 70 in poi ed è stata travolta poi soprattutto dalla legislazione del terremoto, quella degli anni 80, che è diventata un diluvio di soldi. Quando c'è stato il diluvio del terremoto è andato tutto male. Come sì, c'è stato poi un uso anche dei finanziamenti da parte del potere politico. Sì, troppi soldi diventano una tentazione troppo forte per fare i propri interessi e non quelli del pubblico. E la cosa più importante è che anche quando c'è stato il diluvio dei soldi europei le cose non sono andate bene. Cioè, in effetti, noi sappiamo benissimo che troppi soldi per il Mezzogiorno vuol dire troppo male nei risultati. Quindi noi dovremmo andarci un po' più cauti con questi soldi nel Mezzogiorno. Grazie al professore Massimo Lo Cicero. Io ringrazio anche in redazione Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per questa puntata. Pietro La Corte in regia. È tutto per oggi. Focus Economia torna domani. Radio 24. La passione si sente.